Quando annuncio l'Evangelo sento spesso dire: ma possibile che siano così poche le persone a seguire la verità? Ci sono tante religioni, possibile che tutte sbagliano? Questi sono interrogativi tipici della nostra epoca perché nella cultura generale e nel profondo del cuore dell'uomo vi è il concetto che tutto sia relativo. Le domande che pongono coloro che ascoltano l'Evangelo non hanno lo scopo di ricercare la verità, ma quello di cercare una via per non accettare il messaggio assolutistico di Cristo. Così, dopo aver compreso che Cristo è la verità, che Lui è il punto fermo per chi cerca Dio, le persone abbracciano di colpo la teoria del relativismo. Cos'è il relativismo? Il relativismo è la tesi secondo la quale non ci sono assoluti, niente punti fissi, non vi è alcuna verità oggettiva. Tutto ciò che valutiamo sono solo le nostre prospettive o le nostre costruzioni sociali, le quali non sono altro che nostre. Poiché altre persone e altre culture vedono in modo differente, tutto è relativo. Ognuno può avere ragione, almeno parzialmente. Nessuno può dire che gli altri punti di vista siano sbagliati. Secondo il relativismo, anche la moralità non può essere assoluta perché è un fatto di cultura. Non ci è un Dio morale, trascendente, che stabilisce valori morali fissi e universali. Perciò, nessuno può avere pretese di assolutezza, e per questo il cristianesimo storico è inaccettabile, perché si presenta assoluto e appare intollerante nel sostenere testardamente di seguire la verità. Se la filosofia relativista ha queste premesse, va da sé che sposando una simile ideologia, il relativista non ammette che esistano dei fatti, ma solo delle interpretazioni di questi. Non esistono conoscenze scientifiche verificate e verificabili, ma solo opinioni. Non esistono idee giuste e idee sbagliate, ma solo punti di vista differenti. Il relativista rifiuta che si possano trovare dei criteri universalmente validi per separare la verità dall'errore, la giustizia dal torto. Per questo il relativista propone, sul piano della morale, un'etica di intenzioni al posto di un'etica di responsabilità. Non è possibile sorvolare su questa ondata di pensiero perché distrugge alla base ogni ragionamento, impedendo all'uomo di essere in grado di accettare il messaggio assolutistico del cristianesimo. Perciò occorre affrontarla con le stesse armi del ragionamento. Se il relativista vuole fare un atto di coscienza, con i suoi ragionamenti si tira la zappa sui piedi. Dal momento che afferma che tutto è relativo e che nessuno può dire che gli altri punti di vista siano sbagliati, la sua stessa affermazione è in contraddizione con se stesso nell'affermare che gli altri hanno torto. Come può un relativista sapere che ogni cosa è relativa se non parte da un principio di verità assoluta? Sarebbe come giudicare una banconota falsa. Com'è possibile giudicare una banconota falsa se non c'è n, è una vera? Per questo il relativista non può essere assoluto. Inoltre, vi è un altro aspetto del vero cristianesimo che è compreso da pochissimi, sia da chi si professa cristiano, sia dall'incredulo, e proprio per questo coloro che professano la loro fede in Cristo spesso vengono mal giudicati. Un'accusa rivolta di frequente a chi testimonia di essere un cristiano è quella di orgoglio. Una domanda con tono di accusa è: ma possibile che solo voi abbiate la verità? Possibile che tutte le altre religioni sbaglino? Non vi viene il dubbio che possiate sbagliare anche voi? Anche se chi le pone non è cosciente, queste domande provengono dalla filosofia relativista. Quella filosofia, appunto, che ritiene impossibile che vi sia una verità assoluta. Da un certo punto di vista le domande sono più che lecite, ma il non accettare la risposta è sintomo di slealtà. Quale può essere questa risposta? La risposta può essere questa: dal momento che esiste la verità e l'errore meno, dato che non può esistere l'errore se non vi è verità, come nel caso della banconota falsa, meno è conforme alla logica che una sola religione sia vera. Se tutte le religioni professano una verità relativista e il cristianesimo professa una verità assolutista, va da sé che solo il cristianesimo è conforme alla verità. Se invece il cristianesimo dicesse una menzogna, allora non vi è più nessuna verità, e se non vi è più nessuna verità non vi può essere neppure l'errore. Ne consegue quindi che tutte le religioni sono vere, e quindi non ve ne sono più delle false. E se tutte le religioni sono vere, dove sono quelle false? E se tutte le religioni sono vere, perché allora tu che sei musulmano non diventi cristiano? E tu che sei cristiano, perché non abbracci la fede induista? È vero che qualcuno ha cambiato religione, ma lo ha fatto perché ha ritenuto sbagliata quella che professava. E se qualcuno ritiene tutte le religioni vere, perché non vivere un giorno da musulmano, buddista, induista e alla fine anche da cristiano? Il punto è che viviamo in un'epoca dove le parole non hanno più un significato. Vi è ancora un aspetto della fede cristiana che deve essere messo in evidenza e che dovrebbe far tacere ogni bocca sprezzante. Si accusano i cristiani di essere dei presuntuosi anche perché essi pretendono di essere i soli nel giusto e tutti gli altri sbagliano. Può darsi che questa accusa abbia un certo fondamento perché alcuni credenti presentano il cristianesimo in modo sbagliato e arrogante. Ma il vero cristianesimo e il vero cristiano non dicono mai di essere la verità, ma di seguire la verità. Il messaggio di chi ha posto fede in Cristo quale Salvatore e Signore è che Gesù ha dichiarato di essere la via, la verità e la vita. Il cristiano non sostiene che quello che lui dice sia vero solo perché lo dice lui, ma egli dichiara con forte convinzione che quello che Gesù ha detto è vero. La verità è Gesù Cristo, non il credente. Il credente si limita a ripetere le parole di Gesù, parole di cui lui stesso si è appropriato, ma non sostiene mai che ciò che insegna sia la verità solo perché procede dalla sua bocca. Il credente in Cristo si riconosce come testimone della verità, ma non è il possessore della verità. Il credente in Cristo si riconosce come un canale dove scorre la verità, meno come un filo elettrico dove scorre la corrente, meno mai il filo non è la corrente, come il cristiano non è la verità. Questo fatto spiega alcune discrepanze in seno alla cristianità. Non tutti i cristiani hanno le stesse vedute in merito alla morale e ai comportamenti sociali e politici, ma questo è dovuto al loro modo di intendere la parola di Dio e non al fatto che la parola di Dio si contraddica. Il credente, anche se possiede lo Spirito Santo che lo guida nella verità, rimane pur sempre un essere umano limitato dalla cultura e dall'età. Una realtà che porta i figli di Dio ad avere opinioni diverse e a volte contraddittorie. Nonostante queste difformità, i credenti che hanno come massima autorità la parola di Dio sostengono che la verità è una sola, e cioè Gesù Cristo. Proprio perché la verità non risiede in un codice, non è in un comandamento scritto meno, anche se la verità deve essere espressa in comandamenti scritti meno, ma perché la verità è la persona di Gesù Cristo, spesso è difficile capire il suo volere. Una persona non è metallica come uno scritto, non ha sempre lo stesso tono o lo stesso ordine come una legge, ma si adegua alle esigenze del momento e muta quando le circostanze glielo impongono. Mentre un comandamento scritto rimane sempre quello, e non tiene conto delle circostanze. Una persona può dare un ordine, vietare un comportamento, e lui stesso, in seguito, infrangerlo. Nessuno ha vissuto e messo in evidenza la verità come Cristo Gesù. Non a caso Gesù sfidò i suoi contemporanei con questa domanda: chi di voi mi convince di peccato? Giovanni 8.46. Anche il messaggio degli Apostoli aveva come obiettivo principale la perfezione di Gesù. Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Ebrei 4:15. Eppure, se vi è un comportamento apparentemente contraddittorio, esso è riscontrabile proprio nella vita di Gesù. Comportamento che è stato notato dai suoi oppositori e nemici, ma che alla fine non ebbero nulla da dire. Non la dice forse lunga questo aspetto? Se la verità, cioè Gesù Cristo, si fosse contraddetto, con dei modi opposti di comportarsi, subito sarebbe stato condannato, ma evidentemente il suo comportamento non era sbagliato, anche se a volte diceva una cosa e poi ne faceva un'altra. Gesù diede l'ordine ai suoi discepoli di non andare tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, Matteo 10.5, ma egli stesso aiutò dei gentili come il servo del centurione e la donna sirofenicia, e rimase per 2 giorni con i samaritani di Sichar. Giovanni 8.40. Questi opposti e non contraddittori modi di comportarsi rivelano che la verità è una ma si adegua alle necessità dell'uomo. Così, mentre il relativista o il relativismo come movimento filosofico professa che non vi possono essere assoluti, il cristiano sostiene che l'assoluto è in Dio, che la verità esiste, è una ed è la persona di Gesù Cristo, e sostiene pure che questa verità si esprima anche in modo relativo. Ne sono un esempio i sacrifici levitici ordinati dall'Eterno. Per millenni il popolo di Israele ha offerto dei sacrifici di animali, ma con questo rito essi esprimevano in modo relativo il sacrificio completo, reale, unico di Cristo. Anche se la fede dei credenti dell'Antico Testamento era relativa, era pur sempre vera, come del resto anche la fede del cristiano di oggi è relativa perché ci sono cose che ancora devono essere rivelate. Ma il relativo del cristiano è diverso dal relativo del relativista, perché mentre per il credente il relativo è riferito ad una verità che viene progressivamente rivelata, per il relativista il relativo è riferito ad una non verità che rimane sempre quella. Perciò chi afferma che tutto è relativo per forza di cose vuole intendere che la verità non esiste, perché se volesse intendere che esiste, allora egli dovrebbe accettare anche la fede cristiana, dato che nel suo relativizzare di fatto la ritiene vera. In definitiva, la mia conclusione è che il relativista prende questa posizione solo per non sentirsi responsabile e coinvolto di fronte al messaggio di un Vangelo assolutista. Non solo. Soprattutto per non accettare la persona di Cristo Gesù che, pur essendo lui stesso l'assoluto, nulla ha in sé di assolutistico, cioè non è un tiranno. Novembre 2005. Ellero.